La neve da zucchero. Per giorni splendette il sole e fece caldo. Non c'era gelo sulle finestre al mattino. Per tutto il giorno i ghiaccioli caddero uno dopo l'altro dalla grondaia, infrangendosi sui banchi di neve sottostanti, con un crepitio ovattato. Gli alberi scossero i rami umidi e neri e ne vennero giù grossi pezzi di neve. Quando schiacciavano il naso contro il vetro freddo della finestra, Mary e Laura vedevano gocciolare l'acqua dalla grondaia e dai rami spogli delle piante. La neve non luccicava, era molle e stanca. Sotto gli alberi dai quali era caduta a grossi pezzi era tutta incavata e lungo il sentiero i suoi banchi si assottigliavano e si abbassavano sempre di più. Poi un giorno Laura vide in giardino una gran macchia di terreno sgombro. Col passare delle ore quella macchia diventò sempre più grande e prima di sera l'intero cortile era fango nudo. Rimasero soltanto il sentiero, ghiacciato, i banchi di neve lungo il sentiero e la staccionata e quelli vicino alla catasta della legna. Posso uscire a giocare? Domandò Laura. Domani, promise la mamma. Quella notte Laura si svegliò rabbrividendo. Le coperte le sembravano sottili, aveva il naso gelato. La mamma le stava rimboccando un'altra trapunta. Vai a rannicchiarti più vicina a Mary, le disse, e ti riscalderai. Al mattino in casa si sentiva il tepore della stufa, ma quando Laura guardò fuori dalla finestra, oh, vide che il terreno era coperto di neve soffice e alta. Pareva tutta di piume lungo i rami degli alberi. Sulla sommità della staccionata ne correva un alto nastro, mentre in cima ai pali del cancello aveva formato due grandi palle candide. Entrò il babbo, si scosse la neve soffice dalle spalle e la fece cadere dagli stivali, battendo i piedi sul pavimento. È neve da zucchero, disse. Laura avvicinò subito la punta della lingua a un pochino di candida neve rimasta in una piega della manica del babbo e sulla punta della lingua sentì soltanto del bagnato, come se avesse leccato della neve qualsiasi. Fu lieta di averla assaggiata senza farsi vedere da nessuno. Perché è neve da zucchero, papà? Domandò. Ma lui le rispose che in quel momento non aveva tempo di spiegarglielo, doveva uscire per andare dal nonno. Il nonno abitava molto lontano, tra i grandi boschi dove gli alberi crescevano più vicini tra loro ed erano più grossi. Laura restò alla finestra a guardare il papà, grande, agile e forte, che si allontanava sulla neve. Portava appeso a una spalla il fucile, aveva la scure e il corno della polvere a un fianco. I suoi stivali lasciavano grandi orme nella neve morbida. Laura rimase a guardarlo fino a che sparì nei boschi. Era già molto tardi quella sera quando rincasò. La mamma aveva già acceso il lume. Sotto un braccio portava un grande involto e nell'altra mano reggeva un grosso secchio di legno coperto. Tieni, Caroline, disse porgendo l'involto e il secchio alla mamma, e poi andò ad appendere il fucile ai ganci sulla porta. Se avessi incontrato un orso, disse, per sparargli avrei dovuto lasciar cadere il mio carico, e rise. E se lasciavo cadere il secchio e l'involto, non avevo più bisogno di sparargli, potevo restarmene lì a guardare mentre lui se ne mangiava il contenuto. La mamma disfece l'involto nel quale c'erano due grandi pani duri e bruni, larghi come i bidoni per il latte. Levò il coperchio del secchio e lo trovò pieno di uno sciroppo di color bruno scuro. Questi sono per voi, disse il babbo a Laura e a Mary, porgendo a ciascuna uno dei pacchettini tondi che si era sfilato da una tasca. Le bambine levarono la carta dai pacchetti e trovarono un piccolo pane duro e bruno dai bei contorni, tutti increspati. Mangiate, disse il papà mentre gli occhi azzurri gli ridevano. Ciascuna delle bambine staccò coi denti un'increspatura e la trovò dolce. Si sciolse in bocca, era molto più buona delle caramelle che regalavano loro per Natale. Zucchero d'acero, disse il papà. La cena era pronta e Laura e Mary posarono i loro piccoli pani di zucchero d'acero accanto al piatto e mangiarono lo sciroppo d'acero spalmato sul pane. Terminata la cena, il Il babbo se le prese sulle ginocchia dopo essersi seduto davanti al fuoco e raccontò loro della sua giornata dal nonno e della neve da zucchero. Il nonno, disse il babbo, ha trascorso tutto l'inverno a fabbricare secchi e spine di legno per spillare. Li ha costruiti di cedro e di frassino, legni che non danno un sapore cattivo allo sciroppo d'acero. Per fare le spine, ha tagliato dei bastoncelli lunghi come la mia mano e spessi come due delle mie dita. Da una parte il nonno ha tagliato via la metà dello spessore dei bastoncelli. In questa maniera il bastoncello era rotondo da una parte e mezzo rotondo dall'altra. Con la punta di un trapano, allora, il nonno ha scavato un foro nella parte interamente tonda del bastoncello e con il coltello ha poi allargato il foro fino a lasciare all'esterno una sottilissima parete di legno. Ha poi lavorato la parte metà tonda del bastoncello, incavandola fino a farla diventare come una piccola grondaia. Ne ha fatti a decine di questi legnetti. E poi ha fatto 10 secchi di legno nuovi. E così ha avuto tutto pronto quando è venuta la stagione tiepida e la linfa ha cominciato a scorrere negli alberi. Allora è andato nei boschi di aceri e con il trapano ha forato ogni tronco e in ogni foro ha piantato col martello una delle spine che aveva fatto e sotto la parte a grondaia di ciascuna spina ha posato un secchio di cedro. La linfa, dovete sapere, è il sangue degli alberi. Viene su dalle radici quando comincia a fare caldo in primavera e sale fino alla sommità di ogni ramo e di ogni ramoscello per farvi crescere le foglioline verdi. Quando la linfa dell'acero arrivava al foro fatto nel tronco, ne scorreva fuori e scendendo lungo la piccola grondaia cadeva poi nel secchio. Ma non soffriva il povero albero per questo? Domandò Laura. Non più di quanto soffri tu quando ti pungi un dito e ne esce il sangue, assicurò il babbo. Tutti i giorni il nonno si mette gli stivali, il cappotto pesante e il berretto di pelo e va nei boschi pieni di neve a raccogliere la linfa. Con un tino appoggiato sopra una slitta va di tronco in tronco e vuota nel tino la linfa che si è raccolta nei secchi. Porta il tino fino a una grande caldaia di ferro, appesa a una catena legata a un tronco posato come un ponte tra le inforcature di due alberi. Poi versa la linfa nel pentolone di ferro. C'è un gran fuoco di legna sotto il pentolone e la linfa bolle e il nonno la sorveglia con cura. Il fuoco deve essere infatti abbastanza vivo per far bollire la linfa, ma non tanto da farla traboccare dal pentolone. Ogni tanto poi bisogna schiumare la linfa. Il nonno la schiuma con un grande mestolo di legno dal manico lunghissimo che ha costruito col legno di tiglio. Quando la linfa si riscalda troppo, il nonno ne toglie grandi mestolate dalla pentola e dopo averla sollevata in alto, la riversa piano piano. In questa maniera la linfa si raffredda e non viene troppo in fretta a bollore. Quando, seguitando a bollire, la linfa si è concentrata al punto giusto, il nonno riempie di sciroppo d'acero i secchi. Fatto questo, fa bollire ancora il resto della linfa fino a che si fa granulosa se la si versa su un piatto. Non appena la linfa si indurisce, il nonno si precipita accanto al fuoco e lo allontana da sotto il pentolone. Poi, più alla svelta che può, versa a mestolate lo sciroppo denso nei secchi per il latte che aveva già preparato prima. In questi secchi lo sciroppo si trasforma in pani duri e bruni di zucchero d'acero. Allora si chiama neve da zucchero perché il nonno sta facendo lo zucchero? Domandò Laura. No, disse il papà, si chiama neve da zucchero perché quando la neve cade in questo periodo dell'anno vuol dire che gli uomini possono fare una quantità maggiore di zucchero. Infatti, questo breve periodo di freddo e la neve ritardano lo spuntare delle foglie degli alberi e questo fa scorrere più a lungo la linfa. Quando capita che la linfa scorra più a lungo, il nonno ha la possibilità di fare tanto zucchero che gli basta poi tutto l'anno per l'uso di ogni giorno. Quando andrà in città con le sue pellicce non avrà bisogno di barattarle con altro zucchero di magazzino. Sarà contento il nonno che c'è la neve da zucchero, osservò Laura. Oh, certo. Molto contento. Lunedì Venturo uscirà di nuovo a far zucchero e dice che dobbiamo andarci anche noi tutti con lui. Gli occhi di papà scintillarono. Aveva tenuta per ultima la notizia migliore, disse la mamma. Ehi, Caroline, ci sarà un ballo. La mamma sorrise. Appariva molto contenta e per un attimo posò il rammendo. Oh, Charles, esclamò. Poi seguitò a rammendare, ma continuò a sorridere. Mi metterò l'abito bello, disse. Era un abito bellissimo, verde scuro, con tanti disegnini sopra che sembravano fragoline mature. Era stato fatto nell'est, da dove veniva la mamma, quando aveva sposato il babbo, e poi loro si erano trasferiti nell'ovest, nei grandi boschi del Wisconsin. La mamma era molto elegante prima di sposare il babbo. Quel vestito era stato riposto e avvolto per bene nella carta. Laura e Mary non l'avevano mai visto addosso alla mamma, ma una volta lei glielo aveva fatto ammirare. Aveva permesso loro di toccarne i bei bottoni che chiudevano la pettorina e aveva mostrato come quei bottoncini si infilassero alla perfezione nelle asole. Un ballo doveva essere una cosa davvero importante se la mamma pensava di mettersi il suo bell'abito di lana. Laura e Mary erano emozionatissime, si misero a saltellare sulle ginocchia del babbo e continuarono a chiedergli del ballo, tanto che alla fine lui disse: "Adesso, bambine, andate a nanna di corsa. Saprete tutto del ballo quando lo vedrete. Io adesso devo cambiare una corda al mio violino." Lunedì mattina tutti si alzarono presto con una gran fretta di mettersi in cammino per andare dal nonno. Papà voleva arrivare in tempo per aiutare il nonno a raccogliere e far bollire la linfa. La mamma, dal canto suo, avrebbe dato una mano alla nonna e alle zie nel preparare le cose buone da mangiare che sarebbero state offerte ai partecipanti al ballo. Si fece la prima colazione, si rigovernò e si rifecero i letti alla luce del lume. Il babbo mise con cura il suo violino nella custodia e pose il tutto al sicuro sulla slitta che già attendeva al cancello. L'aria era gelida e il cielo era grigio quando Laura e Mary, prima, e la mamma e la piccola Carrie, poi, furono sistemate bene al caldo sotto le coperte e sopra la paglia che copriva il fondo della slitta. I cavalli agitarono la testa e scalpitarono, facendo tintinnare allegramente i campanelli della slitta e poi partirono per la strada che portava ai grandi boschi dove abitava il nonno. La neve era umida e liscia sulla strada e la slitta vi scivolava sopra così veloce che i grandi alberi parevano scappare via da entrambi i lati. Dopo un po', nei boschi ci fu il sole e l'aria ne sfavillò. Lunghi fasci di luce dorata si stendevano tra le ombre dei tronchi degli alberi e la neve era tutta colorata di un rosa pallido. Le ombre erano tenui e azzurre e ogni cumulo di neve e ogni minuscolo sentiero aveva la sua ombra. Il papà indicò a Laura le orme che i piccoli animali avevano lasciato sulla neve ai bordi della strada. Quelle minuscole saltellanti delle lepri dal codino a ciuffo di Bambagia, quelle ancora più minuscole dei topi campagnoli e quelle a ricami delicati degli uccelletti delle nevi. C'erano delle impronte più grosse, simili a quelle dei cani, dove erano passate di corsa le volpi, e c'erano anche le orme di un cervo che doveva essere scappato con un gran balzo nel bosco. L'aria si andava già facendo più tiepida e il papà disse che la neve non sarebbe durata a lungo. Non passò molto tempo che la slitta entrò scivolando dove sorgeva la casa del nonno. La nonna venne sull'uscio e vi si fermò sorridendo e invitando tutti a entrare. Disse che il nonno e lo zio Giorgio erano già fuori al lavoro nei boschi degli aceri. Allora il papà andò laggiù ad aiutarli, mentre Laura e Mary e la mamma, con la piccola Carrie in braccio, entrarono in casa con la nonna e si tolsero i mantelli e gli scialli. A Laura piaceva moltissimo la casa della nonna, era molto più grande della loro. C'era una stanza molto ampia e poi una cameretta che apparteneva allo zio George e poi c'era un'altra stanza per le zie, zia Docia e zia Ruby. E finalmente c'era la cucina con un'enorme stufa per cucinare. Era bellissimo attraversare di corsa tutta la stanza grandissima, dall'ampio caminetto a un'estremità fino al letto della nonna all'altra sotto la finestra. Il pavimento era fatto di larghe e spesse tavole di legno che il nonno aveva ricavato con la scure dai tronchi. L'impiantito era ben piallato e lavato fino a diventare tutto pulito e bianco, e sopra il grande letto, sotto la finestra, era posato un morbido piumino. Per Laura e Mary, rimaste a giocare nella grande stanza, la giornata passò in fretta. La mamma aiutò la nonna e le zie in cucina. Gli uomini si erano portati nei boschi il loro pasto, così per colazione non ci si mise a tavola, ma si mangiarono panini imbottiti di cacciagione e si beve del latte. Ma per la cena la nonna fece un pudding. Rita, accanto al fornello, versò con le dita la dorata farina di grano in una pentola di acqua salata che bolliva. Seguitò a mescolare l'acqua con un grande cucchiaio di legno. E versò la farina fino a che la pentola fu colma di una massa densa giallastra che faceva le bolle. Allora la nonna spinse la pentola in fondo alla piastra della stufa in maniera che cuocesse a fuoco meno vivo. Si sentiva un buon profumino, tutta la casa aveva un buon odore, con gli aromi dolci e pungenti della cucina e il profumo dei ceppi di legna che ardevano con fiamme limpide e luminose nel caminetto. E con la mela tutta trafitta di chiodi di garofano posata accanto al cestino da rammendo della nonna sulla tavola. Il sole entrava dai vetri splendenti delle finestre e tutto era ampio, spazioso e lindo. All'ora di cena il babbo e il nonno tornarono dai boschi. Ciascuno di loro era carico di una specie di basto di legno fatto dal nonno. Era tagliato in maniera che si adattasse al collo dietro e poi seguisse bene la curva delle spalle. A ognuna delle estremità del basto pendeva una catena con l'uncino e a ciascun uncino era appeso un secchio di legno pieno di sciroppo d'acero bollente. Il papà e il nonno avevano preso lo sciroppo dal grande pentolone rimasto nei boschi. I secchi li avevano tenuti fermi con le mani, ma il loro peso era stato sostenuto dai basti che portavano sulle spalle. La nonna fece posto sulla stufa una grande pentola di rame. Il papà e il nonno versarono lo sciroppo nella pentola di rame che era tanto grande da contenere tutto lo sciroppo dei quattro grossi secchi. Poi arrivò lo zio Giorgio con un secchio più piccolo di sciroppo e allora si cenò col pudding caldo e lo sciroppo di acero.